Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento non rimane affatto confermato, stavo per commettere un errore, mi dicono che esigenze di programmazione, insomma, ci liquidano per un paio di settimane. Speriamo di risentirci, quindi la data non la so, fra 2 settimane. Arrivederci a tutti, buona giornata.